Due. Ascolta e ripeti. Anne ti ricorda con molta simpatia. Sono contenta, grazie. Anne è stata qui la scorsa estate, vero? Sì, mi sembra ad agosto. Sì, sì, è vero. Anne era qui ad agosto. In quel periodo era molto caldo. Mentre Anne frequentava il corso, sua figlia Rosa è venuta a trovarla. Un giorno Rosa è stata in classe con noi e ha scattato delle foto mentre facevamo lezione. Sì, ricordo quelle foto. Dopo la fine del suo corso, Anne le ha raccolte tutte in un album e ha scritto sotto ogni foto i nomi dei compagni di classe. Prima della mia partenza, ho visto le foto con Anne. Mentre sfogliavamo l'album, Anne parlava di te e degli studenti della sua classe. Erano in gamba. Erano in... Che vuol dire? Essere in gamba significa essere bravi. Gli studenti della classe di Anne, alla fine del corso, parlavano tra di loro solo in italiano. Anne ha fatto molte amicizie mentre era qui. È passato più di un anno e Anne è ancora in contatto con molti di loro. Qualche settimana fa ha ospitato una signora norvegese. Non ricordo il nome. Non c'era una signora norvegese nella classe di Anne. No, no. Questa signora non era nello stesso corso di Anne. Ma abitavano nello stesso appartamento. Ah, ho capito. Era la signora... Sì, la signora Esther. Sì, Esther. Non riuscivo a ricordare il nome. Esther amava suonare il piano. La mattina seguiva le lezioni e il pomeriggio si metteva a suonare il piano. Spesso le persone si fermavano sotto le finestre della scuola per ascoltare la musica. Davvero? C'è un pianoforte qui a scuola? Sì, è al piano superiore. Sai suonare? Un po'. Che bello! Allora, se vorrai suonare, ti ascolteremo con piacere.